341. Filetto alla parigina. Poiché spesso sentesi chiedere nelle trattorie il filetto alla parigina, forse, perché piatto semplice, sano e nutriente, bisognerà pur dirne due parole e indicare come viene cucinato. Fatevi tagliare dal macellaio, nel miglior posto del filetto di manzo, delle braciole rotonde, grosse circa mezzo dito, e queste mettetele a soffriggere nel burro, dopo che esso avrà preso colore a fuoco ben vivo. Sale e pepe per condimento, e quando avranno fatto la crosticina da tutte le parti, onde dentro restino succose e poco cotte, spargeteci sopra un pizzico di prezzemolo tritato e levatele subito. Ma prima di portarle in tavola, copritele con sugo di carne o con una salsa consimile, oppure, che è cosa più semplice, nel sugo rimasto, dopo la cottura, gettateci un pizzico di farina e con brodo fate un intriso e servitevi di questo invece del sugo.